Oggi, 30 anni fa, Aldo Moro. 29 marzo 1978. Le Brigate Rosse fanno recapitare il comunicato numero 3. È quello che annuncia il processo con la più completa collaborazione del prigioniero, così scrivono i terroristi. Ieri sera dunque è arrivato il terzo messaggio delle Brigate Rosse da quando esattamente 2 settimane fa in via Mario Fani si compì la strage della scorta dell'onorevole Moro e il presidente della DC venne rapito. Allegata al messaggio c'era una lettera autografa di Aldo Moro che tutto lascia ritenere autentica. Non si tratterebbe cioè di un'accurata imitazione della calligrafia del presidente democristiano, ma di un testo scritto di suo pugno, anche se è facile intuire sotto quali pressioni e condizionamenti. Insieme al documento i brigatisti diffondono 3 lettere dello statista. La prima è per la moglie Leonora, la seconda per Nicola Rana. Carissimo Rana, le accludo una lettera da far pervenire a mia moglie e ai miei, dei quali non so nulla. E poi ancora una lettera sul caso politico da portare nelle proprie mani del ministro Cossiga e con la comprensibile immediatezza. La mia idea e speranza è che questo filo che cerco di allacciare resti segreto il più a lungo possibile. Fuori da pericolose polemiche. La terza lettera è indirizzata al ministro dell'interno, Francesco Cossiga. Caro Francesco, penso che un preventivo passo della Santa Sede, o anche di altri, di chi, potrebbe essere utile. Converrà che tenga, d'intesa con il presidente del Consiglio, riservatissimi contatti con pochi qualificati capi politici, convincendo gli eventuali riluttanti. Un atteggiamento di ostilità sarebbe una strattezza e un errore. Che Iddio vi illumini per il meglio, evitando che siate impantanati in un doloroso episodio, dal quale potrebbero dipendere molte cose. Intanto si apre il 41esimo congresso del Partito Socialista. Bettino Craxi, il segretario, apre un fronte di trattative e rompe così lo schieramento dei partiti della fermezza. Daniele Biacchessi, GR24, Il Sole 24 Ore.